a 6 giorni. Cari amici, benvenuti a questa ennesima puntata di A Tutto Gol, la trasmissione che è come la Galbani, vuol dire fiducia. Infatti si è ingrassato come un gabbanone, il cretino! Per favore, un minuto di attenzione, regista, perché prima di andare avanti dobbiamo dire che, dato la fine dei fondi del dottor Margheritoni, finanziatore del programma, dobbiamo trovare un altro finanziatore, quindi non sappiamo che fine facciamo. E muglierta, cacchio, su un'altra cosa, Margheritoni! Va bene, i panni sporchi si lavano in famiglia. Andiamo con l'ospite della settimana, è uno dei tecnici emergenti più famosi d'Europa, l'attuale tecnico della Roma, Luis Enrique. Hola, Luis! Hola, Pablo, a te e a todos los ascoltadores, se ce ne sono in ascolto. Ma non penso, cacchio, parliamo della Roma. Comunque, benvenuto, ti faccio subito una domanda originale. Il bilancio di questi tuoi primi mesi in Italia. La mela, passa la palla, la mela! Scusami, che domanda del piffero pure tu che fai. Non te lamentare se poi non hai ascoltadores. Comunque, penso bien, sono contento della squadra. Vabbè, torniamo dopo a parlare della squadra. Comunque ci sono... Si ci può dire cosa vi siete detti con Tassotti dopo esservi rincontrati? Ma io veramente gli ho detto... Hijo de puta! Della muerte tua e di chi ti è stramuertos! E chi bada scusa? E vuol dire ciao, mi dispiace per tutto quel casino. Comunque, vista l'età media del Milan, pensavo giocassi ancora. Ah, perfetto. E con la squadra come si trova? Ma con l'equipo diciamo che mi trovo bien, tranne che mio aspettavo otros. Cioè? Ma mi avevano fatto uno schemino per inserire Giannini, Weller, Servone. Onde stanno questi? Oh, Luis, ma dobbiamo modernizzare poco. Si ci ha ritrovato i Margheritoni. Ah, Margheritoni, gran giocatore! Ma che fine ha fatto? Io lo sapevo alla cosa. Lasciamo sta, Luis. Comunque, per questo nuovo presidente, come si trova? Ma insomma, la stravuetta, abbiamo fatto un giro per Roma. Ci abbiamo messo 3 giorni perché si è fermato in tutti i McDonald's alla città. Minchia, ha speso 46.000 euro e invece di comprarmi un giocatore decente mi ha comprato José Angel. Infatti che sono stato adesso, tu vabbè, in ultima analisi, come si è trovato con Francesco Totti? Ma lui, devo dire, non è un granché, ma sai come gli dico? Tu allenate che può essere che ti faccio giocare. Intanto io mi voglio trombare tua moglie, che è una bella topazia la moglie. Va bene, si è capito, Luis. Va bene, ti ringraziamo e buona fortuna. Arrivederci. Grazie a te, amico. Ma domani chiudi il programma, so ancora... Ancora c'è, fino a quando c'è la nuova cosenza, ancora va avanti. Sì, ho intenzione di fare una cosa. Cioè, che cosa? E freghiamo i soldi al De Benedetto e te finanziamo sto programma di merda. Come niente, ti faccio pure allenare una cosenza che è una squadra forte a giocare a Roma la stessa. Ah, è quella qui che gioca Margheritoni o Voller Cervone? Sì, chi l'ha creato? Oh, perfetto, cioè lo schema già, ok io. Tu vieni capovedremo, va bene. Bueno, amico, bueno. Allora, abbiamo parlato con l'attuale allenatore della nuova cosenza. Arrivederci a tutti da tutto gol da Paolo De Paolis.